齿槽音 s s z z asino asino rosa rosa casa casa scarpa scarpa scopa scopa stella stella 练习 sale sale sella sella sino sino sole sole sudore sudore tisi tisi peso peso posa posa tesi tesi riso riso Gesù Gesù uso uso lusso lusso base base basse basse cosa cosa rossa rossa dose dose tosse tosse stalla stalla stele stelle stile stile stufa stufa scala scala scuola scuola nastro nastro studio studio sinistra sinistra destra destra tasca tasca festa festa sdegno sdegno sbaglio sbaglio svelto svelto sgelo sgello snello snello smania smania sveglia sveglia svago svago assisi 谚语 proverbi l'abuso toglie l'uso ogni cosa ha il suo inizio